Eccoci, Ciao a eccoci. tutti e a tutte. Tornate dopo la pausa estiva che un po' alla fine abbiamo fatto anche noi, Sì, dai, effettivamente. dai, si era Sì. detto no, non c'è, invece, vabbè, Eh sì, non d'altra si voleva parte. fare i soliti piccoli borghesi che vanno in vacanza. Infatti non siamo andati in vacanza, però ci siamo presi uno stacco, Esatto, non diciamo. siamo poi così diverse in fondo. E quindi però siamo tornate e in formissima e abbiamo deciso di iniziare questo anno questa nuova stagione della Fuga del Gatto All'insegna della polemica, come sempre. all'insegna della polemica. E No. polemica. No, no, vabbè, Ma, sì. vabbè. Della critica, insomma, noi non Sì, siamo. sì. Ah, noi non siamo come tutte le classiche trasmissioni di musica classica che incensano gli autori così a prescindere. Noi, come al solito, siamo così la spina nel fianco. Bello, mi E ti piace, piace la spina nel sì. fianco? È così. E quindi ci approcciamo sempre anche ai mostri sacri in maniera un pochino così, un po', vero, un po' puntigliosa. Sì, soprattutto Un po' quando si così. tratta del romanticismo. E il romanticismo non ci va tanto giù, lo No. sapete, noi siamo così, No, però abbiamo più per deciso di altri. prendere il toro per le corna e parlarne. Affrontiamola, Doveva come i succedere. problemi vanno sempre Ma affrontati. sì, anche perché se poi vi parliamo sempre di Vivaldi, di Handel, delle cose che E ci ci piace. piacciono, Di vabbè, Mozart, va Mozart, tutto bene. facile. Invece no, quest'oggi, questa domenica pomeriggio, vi parliamo di Liszt. Così, Ah ah. bam. No, che poi non è vero, non è che ne parleremo necessariamente sempre solo Oh, male. come facciamo con tutto il resto No, degli argomenti del mondo? devo No. dire che certe cose a me piacciono pure, Sì, anzi. no, no. Tra l'altro Liszt è un altro di quelli conosciutone, però poi sempre un po' superficialmente, no? Nel Sì, senso è uno sì. alla Debussy, un po' di quelli che la gente conosce un po' così, giustamente tolti gli addetti ai lavori, che ovviamente se ne intendono, però insomma in generale è uno molto conosciuto, soprattutto appunto, no? Come virtuoso, no? Come pianista, Sì. in particolare, però ci sono dei pezzi molto conosciuti, però quelli, ecco, poi non è che È si vero. approfondisce mai molto, no? La produzione, che invece è piuttosto vasta, insomma, Sì, tra e l'altro, ampia. invece, a detta di moltissimi critici, devo dire, più moderni magari, in realtà le cose migliori probabilmente sono quelle un po' meno Beh, conosciute, come quelle un spesso po'... accade. Sì, gli studi, fra l'altro, certe cose che non erano concepite come insomma, l'essenza del suo pensiero, che invece vedremo, insomma, poi quando era così invece era un po' più pesante. Invece le cose che nascevano come studi, come esercitazioni, come magari reinterpretazioni di altri brani scritti da altri, eccetera, quelli invece poi probabilmente erano quelli più interessanti, o almeno, insomma, questo è quello che pensano in tanti adesso. Ma direi di iniziare un po' dalla biografia, perché la biografia di Liszt è piuttosto interessante e essendo uno degli eroi romantici dell'Ottocento, la sua vita è strettamente collegata poi alla sua poetica, a quello che poi è andato a scrivere, la sua musica e tutto. Anche perché lo vedremo, insomma, Liszt è uno dei cioè, di quelli che hanno in qualche modo probabilmente anche inventato, o sicuramente insomma, portato allo splendore il concetto dell'artista, dove quindi non è importante soltanto la musica che faccio, ma invece anzi si deve giudicare la musica dalla vita dell'artista. L'artista è un po' un paladino e un eroe che con la sua vita e la sua pensiero porterà grandi sorti alla Claro, rivoluzione, sì. eccetera. È così, è quello è un po' lo spirito del Così, romanticismo, così. così. E lui c'era proprio E lui lo incarna, con sì, le gambe. abbastanza, insomma, pienamente, direi. Non solo lui, insomma, come abbiamo già visto in altre puntate su altri musicisti romantici, però sì, ecco, gli scrittori, i musicisti, così, gli artisti figurativi in generale del romanticismo hanno questa, così, Questo questa, problemino. sì, un po', vivono un po' questa, appunto, questa nuova concezione della figura dell'artista, no? Eh sì. E poi lui, appunto, si parlava dell'Ottocento, Liszt, per l'appunto ungherese, e ci casca proprio piano piano perché la sua vita si dipana tra il 1811 e il 1886, quindi direi che prende proprio a braccia tutto il secolo più o meno, e insomma, quindi effettivamente vede un po' tutto e vive anche un po' tutto quel secolo. E, sicuramente rimane, passa la storia, l'abbiamo detto, come uno dei più grandi virtuosi, almeno dell'Ottocento, ma probabilmente anche di sempre. E sicuramente è un inventore di un nuovo modo di suonare, o perlomeno ha contribuito molto. Tra l'altro pare che grossa invidia destasse il fatto che Liszt avesse delle mani, pare, più grandi del normale. E qui diciamo grazie tante che riesce a fare. E qui le misure contano, perché, sì, perché se permette. Sul pianoforte se te c'è una mano grande è doppio degli altri, grazie tante. E vabbè. E poi quelli che vengono dopo di te devono, poverini, con le loro manine fare quello che te facevi con le mani più grandi. Ma vabbè, a parte questo, comunque effettivamente pare che molte delle sue opere la melodia viene affidata ai pollici delle due mani, lasciando così libere le altre dita di destreggiarsi con arpeggi e ottave, cioè come se tu avessi mille dita sei una specie di polipo, una che specie fai. Di, esatto. E lo sentirete, perché effettivamente nella sua musica cioè, si intuisce effettivamente te devi avere due polipi al posto delle mani. E, allora, la vita musicale, diciamo, di Liszt inizia precocissima, perché famiglia tendenzialmente non povera, però insomma che deriva da una, a sua volta, da una famiglia povera, perché i nonni di Liszt erano contadini, il padre no, il padre già fa un po' più, insomma, è un po' più fortunato, però insomma non è che proprio era il baronetto. E era un funzionario, il padre, e ungherese, ma discendente da contadini tedeschi, appunto. E a 11 anni il nostro Liszt decide di iniziare a suonare il pianoforte, e fra l'altro ci si dedica con un notevole risultato, pare che fosse già a 11 anni piuttosto bravo. Quindi lì, ora lo vedremo, perché poi vi leggerò un pezzettino che racconta meglio l'inizio della sua vita. Il padre si entusiasma e dice vai, ho svoltato, ottimo, perfetto. E da lì, tra l'altro, inizia una biografia che per certi versi, almeno all'inizio, assomiglia a quella di Mozart. Tra l'altro è finito pure a lezione da Salieri. Quindi il nostro grandissimo c'era sì, del sottovalutatissimo Salieri, che a questo, al punto di Liszt, a quel punto penso fosse piuttosto vecchiotto, perché insomma. Infatti anche io mi sono un po' stupita quando l'ho letto, ho detto ma oddio, ma quanti anni c'aveva Salieri? Ma perché in realtà non è morto vecchio Salieri, non è morto. Sì, poi almeno su quello l'ha battuto. Sì, poi effettivamente Liszt se aveva 10 anni, insomma, era al 1820, quindi insomma. Sì, comunque è andata così. E allora vi leggerò durante il corso di questa puntata un po' di brani tratti dalla storia della musica di Confalonieri, che di cui già ci siamo servite in sì. precedenza, che è un mattone, un bel tomo. Però insomma davvero interessante, soprattutto sì. il taglio che ha, mi sembra poi... Sì, molto interessante, tra l'altro soprattutto quando, appunto lo dicevamo prima fuori dai microfoni, quando un autore non gli piace particolarmente... Non si fa troppi problemi. No, ne parla e ne parla assai, cioè capitoli interi, cioè penso ci siano 100 pagine dedicate a Liszt. Sì. Infatti capisci quelli che non gli piacciono da quanto è lungo. Sì, è vero, sugli altri dice vabbè, bello è bizzarra come cosa. E quindi ci dice il nostro amico Giulio Confalonieri: Franz Liszt converge sulla propria persona gli onori pubblici e le grandezze di un monarca, ma invece di chiudersi in una reggia riflette intorno tutto il suo splendore e ne fa un'arma per instaurare il futuro dominio della bellezza come verità che gli eletti posseggono e che hanno il dovere di difendere, di diffondere, di spartire con gli altri per un destino più grande dell'umanità e un più profondo legame fra le creature. Questo almeno è quello che Liszt pensava, credeva, che era un po' anche il frutto del suo tempo. Per ben comprendere questo tipo, forse unico d'artista, occorre tracciarne un po' con la vita, è quello che poi andremo a fare anche un po' insieme. Nelle intenzioni di Liszt l'artista non si rivela soltanto con le sue opere, bensì ancora col suo modo di esistere. Franz nacque in condizioni miserrime, addirittura qua, sì, ora secondo me non erano proprio miserrime. Vabbè, lui l'ha buttata un po' sul caso. Vabbè, sì, lui ne fa però... un po' l'Oliver Twist della situazione, però vabbè, vabbè, lo batte, però all'inizio effettivamente pare di sì, perché senti, dice, lo battezzarono in fretta perché non restasse escluso dal paradiso, ci mancherebbe. Tante volte. E ad ogni momento aspettarono che il suo piccolo cuore cessasse di battere. Insomma... Una volta, Una volta fu giudicato addirittura morto. Madonna. E la bara bianca, non più che un grosso scrigno, già preparata dal falegname della tenuta. Certo. E quindi insomma si portavano avanti. Esatto. Tante volte. A 6 anni il fanciullo parve robustirsi, un po' se non rimasero anche un po' delusi. Poverino. Ma come? Ma ci avevamo già la parte. E invece. E vabbè, ce l'ha fatta. Ed annunciò con ferma decisione il desiderio di imparare la musica. Adamo Liszt, eh sì, questo uso italiano era degli anni quantomeno 60 di tradurre in italiano i nomi. Vabbè, che si deve fare? Adamo Liszt. Divenne quasi pazzo di gioia, capì che avrebbe potuto vendicarsi attraverso il suo figliuolo e con ritmo assolutamente eccessivo si mise ad insegnargli tutto ciò che sapeva. E così andò. Poi, saltiamo un po' perché chiaramente abbiamo capito, insomma, non è che bisogna farla tanto lunga, è un bambino prodigio, maledetto, tutto va bene, finisce, si trasferiscono a Vienna, lì inizia a prendere lezioni di pianoforte e di composizione, tutto è bello, ma il Liszt adolescente inizia a avere i primi problemi. Un primo amore, l'unico sfortunato per quest'uomo che ebbe poi tante donne ai suoi piedi, lo mise di fronte ai residui delle vecchie barriere feudali e insieme con nuovi attacchi di esaurimento e di languore servì probabilmente ad imprimere nuovi caratteri alla sua mentalità già tanto complessa. Infatti Caroline de Saint-Cricq, sua allieva di appena un anno maggiore, la quale apprende da lui il culto di Beethoven e di Mozart, che insegna a lui il culto di Hugo e Lamartine, che accetta e cambia giuramenti di fede eternissima e che poi gli viene tolta inesorabilmente da un intervento del padre Conte, ministro del re Carlo X, Caroline de Saint-Cricq non è soltanto un primo amore, è il simbolo di una situazione e di un contrasto insopprimibile tra le aristocrazie aristocrazie del genio e le aristocrazie sociali. Questa cosa Liszt se la porterà avanti per un bel po', effettivamente. A 19 anni Liszt si lascia mettere fuori dall'uscio da un nobile del regno. In seguito la sua democrazia si applicherà con ostinatezza e con grande riuscita alla conquista di principesse, contesse ed affini. Gli era rimasta un po' Gli è rimasta sul gozzo. E si è vendicato. Quando non è traumatizzato. E poi si io la visco. Sì, e poi gli è andata bene, insomma, si è rifatto, direi. In Franz Liszt, appena ventenne, già si sovrappongono e si urtano folle di sentimenti diversi. Un impulso mistico, in parte ereditato, in parte inteso come via di elevazione e di riscatto dalla materialità della vita. Un gusto tutto nuovo per un musicista di approfondire la propria cultura e di cercare un'armonia tra le finalità della musica e le finalità della filosofia, della scienza, della pittura e della letteratura. Ora, questo gusto tutto nuovo, in questo io sinceramente non mi trovo molto d'accordo, non penso se l'abbia inventato proprio lui, però va bene. Un orgoglio illimitato della propria condizione di artista. Soprattutto una certezza di poter agire per mezzo dell'arte quando essa riuscisse a organizzarsi e diventare un elemento fattivo nel meccanismo della società moderna. Da ultimo, come conseguenza di questo, l'idea che la musica fosse stata sempre un po' schiava dei principi edonistici, per carità, vabbè, e che pertanto le spettasse ora un compito di ribellione. E con questa ribellione non pensate a quello che state pensando, perché poi ve lo diremo, insomma, vi anticipo che sì, il ribelle Liszt finisce prete, quindi insomma, no, non vorrei... Che storie, sì, va bene, vabbè, però ancora siamo, sì, quello che c'è appunto da sottolineare è che questo suo, cioè lui davvero diventa il primo, questo poi lo vedremo anche più avanti quando gli vengono dedicate così ilme, opere d'arte, cioè lui è davvero considerato il primo fenomeno pop, no? Sì, cioè della sì, musica classica, cioè lui proprio in caccia, cioè lui tutti i musicisti di cui si parla, di cui abbiamo, ma partendo da Mozart, no? È tutto, cioè è qualcosa, la figura così divistica, è qualcosa che gli viene applicato dopo, cioè post. Già Beethoven è un po' già che è un inizio perché è già appunto l'inizio del romanticismo, e quindi già lui, però diciamo la figura divistica del musicista è una cosa molto romantica, sono i musicisti romantici a essere divi, perché erano gli esecutori e la gente andava a vedere proprio loro e non le loro opere e basta, o le loro, ed è questo è legato a tutto un sistema di rappresentazione musicale che nel romanticismo la vede fare da padrone della musica da camera, quindi proprio andare a vedere il musicista, proprio il virtuoso che suona. Nel caso di Liszt questo diventa davvero un fenomeno, cioè lui viene proprio idolatrato da, no, cioè schiere di ammiratrici, di ammiratori, cioè un po' forse, no, come erano stati alcuni e come saranno poi i cantanti lirici, ecco, era successo solo per i cantanti questa cosa, per i castrati durante il barocco, e poi succederà per i cantanti, cioè, che però erano esecutori, quindi era ancora, esatto, diverso. Qui veramente lui è proprio quello che più di Chopin, più di Debussy, più degli altri, anche se ovviamente il valore della loro opera era ugualmente alto, però la figura proprio dell'esecuzione, cioè in lui proprio la figura no, l'immagine divistica si fonde con l'immagine della persona, e che quindi poi è quello che voleva, cioè è proprio, sì, ricercato, e fa parte, esatto, della sua poetica in qualche ed, modo, ed è anche proprio il primo in questo, no? È considerato proprio il primo ad avere successo, il cui nome ha successo proprio al di là dell'opera, e quindi ecco, va sempre letto sotto questa luce qui, insomma, è interessante anche per questo. E tornando un po' alla biografia, così poi vi facciamo ascoltare anche un po' di musica, allora, 20 anni, poi insomma piano piano cresce, va avanti, la vita continua, diciamo, e nel 1828 si stabilì a Parigi, dove vive insegnando musica, e avrà come allievi tantissimi musicisti. La sua, insomma, il suo lavoro di insegnante effettivamente non era secondario a quello di musicista, ecco, per niente. Poi cosa succede? Succede che nel 1830 assiste alla prima esecuzione della Sinfonia Fantastica di Berlioz, poi conosce Mendelssohn e Chopin. E insomma, e qui inizia un po' il casino, cioè lì inizia un po' a rimanere folgorato. Quello che io trovo molto bello di Liszt è che non, effettivamente questo c'è da rendere di merito, è che non smette mai durante la sua vita di rimanere meravigliato dalle persone che incontra e ne trae qualcosa, insomma. Quindi non è così egotico di essere concentrato su se stesso, ma invece ha moltissimi amici. Sì, si lascia ispirare, vabbè, erano anche figure talmente imponenti che era difficile non farsi, sì, travolgere. Però magari non diventa mai un antagonismo. No, ecco, esatto, mentre con altri invece, altri sì, musicisti la prendono un po' più come appunto la sfida. Lui no, lui ha sodalizi, poi lo vedremo, con Wagner ovviamente, ma anche con altri, e sempre molto proficui, ed è sinceramente molto colpito e affascinato, e in qualche modo, insomma, dal lavoro altrui. Sì, sì, sì, e questo gli va reso merito. Sempre nel 1933 c'è un altro incontro con Marie Dagolt, che fra l'altro al tempo era sposata con due figlie, e lei molla tutto per seguirlo, e vanno insieme, scappano per 4 anni, tra il 1835 e il 39, fanno questa fuga, che è un lungo viaggio, prima in Svizzera e poi in Italia. E da questi due viaggi, a parte figli, ma nascono anche libri di musica, composizioni, due album in particolare, che poi vengono racchiusi in un unico, che si chiamano, allora, cioè prima l'album di un voyageur, e poi il libro delle années de pèlerinage, che a sua volta è diviso in due volumi, il volume degli anni in Svizzera e poi quello in Italia, esatto. In Italia poi vabbè, conosceranno, insomma, da lì nascono altri due figli, cioè qui, vale. Oh, sì. E quindi in siamo Italia, a 3, perché ne era già nato uno. Esatto. E in Italia, insomma, viaggiano, come era d'uso fra l'altro fare in quel periodo, nel romanticismo, tra il Lago di Como, Venezia, Milano, Firenze, Roma, eccetera. E anche lì altrettanti incontri altrettanto proficui con Rossini, Bartolini, Ingres, Saint-Beuve, eccetera. E da lì, insomma, ne nasce un primo importante lavoro che poi è uno di quelli più eseguiti e più seguiti anche adesso. E da questo io direi facciamo magari sentire il primo ascolto. Il primo ascolto, sì. Tratto dal primo libro delle Années de Pellegrinage, il secondo brano in particolare, tratto appunto dal primo volume e quindi quello dedicato alla Svizzera, Au Lac de Wallenstadt, al lago di Wallenstadt, perché lo vedrete, insomma, questo fa parte appunto di tutta la sua, il modo di ricomporre, ma poi dopo ci entreremo meglio, si era sul didascalico andante. Vabbè. E quindi quando si parla di un diario di viaggio, questo è anche a livello musicale. Figurativo andante. Eh sì, e Marie Dogolt dice: Franz scrisse per me un'armonia malinconica, a proposito di questo brano, a imitazione del singhiozzo delle onde e del ritmo dei remi, che non ho mai potuto riascoltare senza piangere. E peraltro l'ispirazione è anche da Child Harold's Pilgrimage di Byron. Esatto, è figlio del suo tempo in tutto e per tutto. Quindi ascoltiamoci questo brano interpretato dal pianista Willem Kempf, scusate. Thank you. Che bello. Sì. Con questo fruscio. Molto bello. Da vinile. Fruscio ci stava. Allora, nel 1840, quindi pochi anni dopo, altri incontri, ma questi incontri probabilmente sono ancora più importanti di quelli precedenti, Robert Schumann e Richard Wagner. Soprattutto con Wagner inizia un sodalizio, qui lo so che te inizi a fregarti le mani, e in nome del progetto di una musica per l'avvenire, diciamo così, sì, almeno così dice Wikipedia. Vabbè, la visione wagneriana era quella, già si sa, vi ho detto tante volte, no? Di questo scardinare così tutto quello che era stato fino a quel momento, la musica intesa come appunto, no? Legata, no? All'opera, piuttosto che a, soprattutto nell'opera, insomma, a certi stilemi, a certi, e questa rivoluzione, questo nuovo mondo musicale che poi però in Wagner era anche una visione molto politica, cioè lui appunto, no, era stato, che poi dopo sia sempre associato al nazismo, non si è capito mai, ma, però in realtà era stato invece un grande, insomma, un grande così seguace di Bakunin, delle idee per un mondo nuovo e per una nuova società, e quindi sì, anche la musica, immagino che Liszt sia rimasto così affascinato, come chiunque veniva in contatto con Wagner rimaneva affascinato da questa visione, no? Dell'opera d'arte totale, di questo progetto che ancora in Wagner era così in evoluzione per una musica nuova, per un mondo nuovo. Ecco. Sì, poi Liszt aveva probabilmente interpretava e incamerava la filosofia in qualche modo di Wagner a modo suo, ovviamente. Vabbè, certo, è chiaro. E la metteva insieme con tutta un'altra serie di fascinazioni, che appunto è come se fossero una serie di mattoncini che lui prende e lo aiutano a costruire la sua personalità artistica, come abbiamo visto poi coincide con quella, poi insomma, di essere umano, ecco, come peraltro anche siamo abituati adesso a pensare. E quindi oltre a appunto mi viene da dire le teorie, ma insomma diciamo l'esempio di Wagner, c'erano una serie di altre fascinazioni filosofiche che lui metteva nel calderone e poi lo vedremo, appunto, può sembrare strano all'inizio perché lui nasce come rivoluzionario, poi muore da prete, veramente, quindi cioè come se qualcosa a un certo punto si fosse rotto. In realtà non è così strano ed è abbastanza coerente. E qui sempre il nostro amico Confalonieri, Giulio, riprendo la Bibbia qua che pesa un sacco, ci parla ad esempio del rapporto che Liszt aveva con i sansimoniani, perché era un'altra di quelle dottrine, un'altra di quelle teorie, di quelle idee che lo avevano molto colpito e da cui poi ha tratto un bel po' di cose. La dottrina sansimoniana, dice il nostro amico Confalonieri, poggiava sopra una valutazione entusiastica della scienza come elemento sovvertitore della società nel periodo seguente all'età organica, cosiddetta del Medioevo, e simile valutazione enfatizzava sino a un grado francamente lirico e mistico. Qui inizia Confalonieri a incazzarsi, te lo dico. Lui qui si inalbera. Francamente. Lirico e mistico. Della scienza veniva soprattutto celebrata la capacità di previsione, con tale abbandono che i sansimoniani potevano equipararsi ai primitivi adoratori di miracoli e la loro teoria a una forma primitiva di religione, essenzialmente ed esclusivamente intesa come attività taumaturgica. È bello leggere queste cose nel 2019 e vedere che siamo esattamente allo stesso, esatto, punto, però vabbè. Altro tratto della filosofia sansimoniana che molto impressionò un temperamento fondamentalmente sensuale come quello di Liszt fu il suo tentativo di ricollegare allo spirito della carne, allo spirito la carne colpita in antico da ingiusto anatema. E quindi da un lato c'è un riappropriarsi, e questo probabilmente è la parte un po' più effettivamente rivoluzionaria di Liszt, della carne e insomma, portare avanti i propri sentimenti esplicitamente, non più appunto la musica come ode a Dio, come chiaro, in qualche modo esplicitazione di una dottrina, ma invece rimettere se stessi al centro dell'universo. E questo effettivamente fu un passo fondamentale e importante. Dall'altro lato, però, questo io diventa un po' una religione essa stessa, e quindi lì inizia qualcosa un po' a incrinarsi. Il gusto di Franz per i cerimoniali simbolici e per certo esoterismo un poco orientaleggiante trovava pagamento nel considerare le gerarchie di quei protocomunisti, li chiama lui, effettivamente sì, era proprio così, i loro gradi di apostolo, di catecumeno, di iniziato. Effettivamente è buffo pensare come qualcosa che nasce, almeno noi adesso lo vediamo come estremamente rivoluzionario nel suo tempo, poi in realtà si rifaceva a delle dottrine esattamente paro paro a quelle religiose, se non cattoliche, comunque sia quello che ci stava dietro, l'inquadramento che ci stava dietro, quello era. E quindi Liszt, se da un lato prende una cosa come, cioè quello che gli arriva da Wagner, e lo prende come se lo prende, così come insomma si fa influenzare da Schumann, da tanti altri, però in realtà dentro c'ha questo, c'ha ancora molto di questa, volendo anche rigidità di ruoli, di caselle e di appunto gerarchie anche. Vabbè sì, una personalità complessa, un autore complesso, non è mai tutto, no? Non è che ci sono molte sfaccettature proprio nel suo modo anche di intendere la musica, come dicevi te, e di influenze, perché se da una parte appunto lui è travolto un po' da queste figure così, no, che portano in avanti all'innovazione, al cambiamento, da un'altra però è ancora molto legato, ma è un po' tipico dei musicisti della sua epoca, cioè nel senso che Wagner è un po', e anche Schumann sono un po' a pace, sono un po' avanti come tutti i musicisti, non a caso infatti i meno apprezzati poi anche in vita dal pubblico e da... Sì, in un certo proprio senso... perché erano un po' più lancia lui, invece appunto da una parte è affascinato, da un'altra però è ancora... Stempera. Più che altro ha bisogno anche di questo, cioè lui è proprio, come si diceva, il divo, quindi comunque ha bisogno di mantenere, no? E quindi non riesce poi a... mai andare magari a fare, no, un salto un po' più coraggioso in qualcosa che invece magari il pubblico non avrebbe ancora riconosciuto, non avrebbe ancora capito, come invece poteva essere per Wagner o per Schumann o per altri. Sì. Chiaramente sono discorsi così un po', vabbè, semplicistici. Non sì, non è soprattutto così. Fatti adesso sono un po' col senno del poi, però esatto, che se deve fa. Noi il senno del poi ci abbiamo. Ce ne vantiamo. E... Secondo brano, sempre dall'Esanet de Pellegrinage, il secondo libro a questo punto vi facciamo sentire, quello dedicato all'Italia, e in particolare abbiamo scelto Il Pensieroso, che è un brano ispirato alla statua, Il Pensieroso per l'appunto, di Michelangelo, che vi ricorderete sta a San Lorenzo, la Basilica di San Lorenzo, qui a Firenze, e che in qualche modo Liszt descrive in questa maniera. Qui l'interprete invece è il pianista Jeno Genot, non so assolutamente come si legge e né di Giando. Che nazionalità è. Giando, sì, Giando, c'è anche pure l'accento. Vabbè. Beh. Jeno Giando. L'abbiamo detto. Noi così. Sì, sì. Poi sì. Ovviamente per lui che non era così. Sì, che si chiamava Giovanni. Esatto. Vabbè, così. botta di vita, eh? Eh sì, vi abbiamo fatto venire pensieri. Ci doveva stare. Feroso, che si poteva pretendere. Deve stare. I prossimi sono un po' più così, un po' più vivaci, eh? Allora, Liszt inizia a essere piuttosto famoso e iniziano i concerti in giro per il mondo. Nel 1844 finisce il rapporto con Maria da Gould e nel 47 invece... I figli li butta al fiume. I figli si cazzo. Perché alla fine frega. Oltre... Ma sì, ma poi... Qualcuno si aiuterà. Ma lì, sì, sì. Insomma, manda un convento e ci frega. Nel 47 conobbe a Kiev la principessa Caroline Susanne Wittgenstein, e con un nome così, e con la quale si trasferisce in Polonia. Niente, po' di meno che. Esatto, insediatosi a Weimar nel 48 inizia la composizione del poema sinfonico Le Prelude e della Sinfonia Berg. Insomma, iniziano un po' i suoi anni come virtuoso itinerante, va in tour. E qui inizia appunto il suo momento da grande divo. Ora vedremo appunto come anche a probabilmente appunto come dicevi tu prima è diventato il primo grande divo pop della storia. Ah, sì. E tiene appunto una serie di concerti in tutta Europa e tra l'altro cosa interessante è che non, il suo repertorio non era soltanto sulle sue composizioni ma erano anche parafrasi e trascrizioni di brani scritti da altri e c'erano interi libri di composizioni ispirate ai lavori di altri o comunque trascrizioni, rimaneggiamenti ma il tutto esplicito. Cioè, Liszt legge Paganini, vedremo, o altri, insomma. E anche questo io la trovo una cosa interessante di Liszt, nel senso che anche lì non mette al centro solo il proprio lavoro, ma in questi eventi che erano questi concerti dove appunto la gente dava di matto, lui non metteva al centro solo se stesso, ma anche il lavoro degli altri. Quindi anche questa è una cosa che io trovo, continuo a trovare interessante. Sì. Per esempio, i concerti più eseguiti, i brani più eseguiti durante i suoi concerti, per esempio, furono alcuni di Schubert, oppure alcuni brani tratti dalla Lucia di Lammermoor. Leggevo appunto, sì, quelle che vengono definite reminiscenze, no? Che è un modo per dire, boh, in realtà è una rivisitazione. Leggevo reminiscenze di Lucia di Lammermoor, di cui, vabbè, non sto, vero, abbiamo una puntata su Lucia di Lammermoor, quindi se non andatevela a riguardare. No, se no vi bacchetto. Tra le opere di altri compositori, appunto, di cui lui reinterpreta, c'è L'invito alla danza di Carl Maria von Weber, Le mazurche di Chopin, studi di compositori come Chopin, Hiller e anche appunto tributi a opere maggiori come a quelle di Beethoven, di nuovo di Webel, Hamel, insomma di fatto lui, come dicevi te, include e rivisita, probabilmente erano rivisitazioni o semplicemente questi brani, citazioni e suonati da lui chiaramente acquisivano un stile più, così, più personale di Liszt, quindi Beethoven suonato da Liszt piuttosto che... E tra l'altro non questo solo... però è tipico, cioè è proprio una roba da divo, da star, no? Sì. Cioè una cosa che raramente, cioè non è che prima gli altri musicisti non avessero fatto riscritture, però questo prendere fior da fiore da ma poi erano dalle più opere degli altri, più implicite, meno dichiarate. Esatto, cioè c'erano... Invece questo è proprio Liszt che suona Beethoven, sì. Liszt che suona Weber. Sì, tra l'altro non soltanto cose contemporanee ma anche molto più antiche, per esempio Bach, Handel, Scarlatti, insomma. Quindi anche rivisitare con il suo stile brani completamente diversi, di stili e secoli completamente diversi, insomma. Da qui appunto, come dicevamo prima, addirittura fu coniato il termine listomania. La listomania è appunto un termine... che per la prima volta si sentì usare nel 1840 e in realtà appunto è attribuito al critico Erich Heinen che analizzando la stagione concertistica dell'anno del 1844 a Parigi la definì proprio caratterizzata dalla listomania, quindi proprio non è una cosa che è venuta dopo, cioè già contemporanea, già nel suo così nel suo momento veniva definita proprio, caratterizzata, la listomania era proprio un momento caratterizzato dagli intensi livelli di isteria proprio dimostrati dai fan, dalle e dai fan a Liszt, in cui i concerti erano sempre pieni, addirittura solo posti in piedi. E quindi insomma questo è un fenomeno, a noi ci può sembrare normale, i Beatles non hanno inventato niente, esatto, cioè che nel Novecento è stata una prassi, ma in realtà, che come vediamo, nasce molto molto prima, e fino a questo momento nessuno, nemmeno i grandi appunto che conosciamo, avevano avuto questo questo fenomeno, erano stati così portatori di questo fenomeno. Addirittura ha un termine, viene coniato un termine, quindi insomma direi che, ecco, un termine tra l'altro, cioè che, in qualche modo, che una malattia, mania. Eh sì, listomania, proprio la gente si strappava i capelli, cioè rendiamoci conto. Abbiamo un altro due ascolti. Abbiamo due ascolti, volendo. Non so se prima in realtà volevamo parlare anche del film legato proprio a listomania. Sì, in realtà quasi quasi lo terrei in chiusura. Va bene, dice, allora tanto teniamocelo per dopo. Intanto vi facciamo ascoltare due brani che sono due studi, per l'appunto, studi di Paganini, studi sul lavoro di Paganini. Il numero 1 in particolare ci ascoltiamo in sol minore e il numero 5 in mi maggiore. È tutto un intero libro di composizioni dedicato che Liszt dedica a Clara Schumann, e direi che sono passati alla storia, oltre secondo me sono molto belli oggettivamente, cioè proprio belli da ascoltare così semplicemente, però sono passati alla storia come probabilmente i brani più difficile esecuzione mai stati scritti. E anche se insomma ci sono nella storia delle belle, insomma, altri che lo sfidano, delle belle bestie rare, però sì, insomma, sicuramente sono tra i primi posti, e a un certo punto sono stati addirittura riscritti dallo stesso Liszt, perché erano, a un certo punto si accorge che oggettivamente erano veramente dei mostri insuonabili, inesibili. Alcune parti vengono un po' rese un po' più masticabili, e nonostante ciò riescono ancora ad essere di una difficoltà incredibile veramente. Quindi ci ascoltiamo intanto il primo brano, cioè no, in realtà scusate, li sentiamo attaccati, subito il primo, il numero 1, e poi a seguire il numero 5. Il primo è anche chiamato tremolo, perché effettivamente, essendo studi, insomma, andavano a studiare, a indagare determinati aspetti tecnici dell'esecuzione pianistica. Qui in particolare il grosso della questione, il centro della questione è il tremolo, per l'appunto, e lo noterete, insomma, è piuttosto interessante. L'altro invece, il numero 5, beh, c'è della roba pazzesca, il problema non è certo il tremolo, insomma. A dopo. Thank you. siete trasaliti con questo finale un po'. Pam, pam. Emozioni, belli. Questi secondo me sono belli, i più belli. Belli, belli, cioè, ora non è che conosco a meno titolo opera di Liszt, però mi piacciono questi. Allora, durante la rivolta di Dresda del 1849, Liszt aiuta il rivoluzionario Wagner a fuggire in Svizzera. Vorrei che venisse messo agli atti. Grazie. Lui lo nasconde e lo aiuta a fuggire. E vorrei che venisse messo agli atti per tutti gli ignoranti. Ogni volta, no, non voglio ricominciare la polemica di Wagner e il nazismo, però va bene. Cioè, se ancora non avete capito che quasi ai nazisti gli piaceva Wagner, era così perché gli piaceva l'idea, ma non avevano capito più di tanto, e che vengono tipo quasi cent'anni. E qui, se vogliamo insistere con questa cosa, lo so che Woody Allen è simpatico, ha fatto le battute, ridere, sento Wagner, mi viene l'istinto di invadere la Polonia, ma non è colpa di Wagner, che poverello, effettivamente tutto era tranne che, insomma, un proto nazista, visto che non esisteva nemmeno il pensiero nazista all'epoca di Wagner. E litigava sempre anche, ci mancava, tra l'altro, con Nietzsche, quindi proprio non c'era proprio da sì, nemmeno la, nemmeno il proto pensiero gli piaceva, proprio, no, niente, proprio nulla, niente di niente. Allora, dicevamo, però, sono, oltre che aiutare rivoluzionari che scappano, è un momento di grande febbrile creatività. Liszt proprio è pieno di questo divismo, ma anche di una produzione, scrive centinaia di brani per pianoforte, di tutto, insomma. E qui il nostro amico Confalonieri si lancia appunto nel cuore della sua critica e dice: Liszt non si accorgeva come lo stile classico non fosse stato un sistema, peggio ancora una servitù, ma avesse costituito una superba intuizione delle essenze musicali, e come il vero atto di libertà per chi praticasse la musica era quello di rispettarne la sovrana indipendenza, quello di mantenerla regina in un settore dell'essere conoscitivo precluso ad ogni altro possesso. Liszt non si accorgeva che nei confronti delle entità musicali la ricerca di un simbolismo minuto, l'imposizione programmatica di uno svolgimento per concetti ed immagini letterari si riduceva proprio ad un improvvisare, che la composizione della musica, se anch'essa procede da un antecedente logico, da una tal quale precoscienza di quanto si dirà, si compie in modo affatto diverso da come si compie la composizione di un romanzo, di una poesia, di una commedia o di un quadro. È azzardo, troppo rischioso, quello di sperare che un ascoltatore traduca in un determinato modo le melodie e i ritmi del musico solo perché ha sott'occhi poche righe stampate dove viene riassunto ciò che il musico intendeva dire. Le melodie ed i ritmi non vivono che della loro forza e della loro bellezza autonome. Lì per lì, in virtù di un ovvio fatto di suggestione, l'ascoltatore potrà prestare un significato a frasi, armonie, incisi timbrici, ma questo sarà risultato interamente effimero se tali frasi, incisi ed armonie non siano provveduti di autentica necessità musicale. La sottolineatura sonora applicata ad immagini poetiche o pittoriche riuscirà provvisoriamente ad intensificare l'effetto di codeste immagini, non fosse altro perché esaspera, assalendoli da due lati, i centri della nostra sensibilità, ma non accadrà mai che presupposti poetici o pittorici riescano a condizionare un'entità sonora e renderla valevole se questa non sia già valevole di per sé stessa. Ci si illudeva di rappresentare la vita imitando coi suoni il ritmo sconnesso dell'essere fisiologico, i suoi strappi, i suoi moti istintivi, i suoi disordini, e non ci si chiedeva se i suoni avessero davvero bisogno di uniformarsi a fenomeni già sin troppo diffusi. Tanta filosofia, tanto abbandono, tanto desiderio di trascendere, tanta smania di credersi follemente appassionati, finivano con l'umiliarsi in un realismo piuttosto pedante. Il crudo dramma della musica ottocentesca andava aggravandosi per colpa di una generosa illusione. Bam, e qui. E vabbè. E via, Confalonieri romantici 1-0. No, no, è così. No, io la trovo sinceramente una critica molto interessante e la condivido molto, che questa necessità di dover descrivere quella che poi oltretutto è la tua visione che necessariamente porta anche a delle semplificazioni, a una dogmatizzazione, e dover descrivere appunto la realtà, la natura, i fenomeni, gli sentimenti e a pensare con un certo grado di hubris che queste debbano diventare quindi universali, cosa tipica dell'Ottocento e insomma oggettivamente adesso possiamo dire che è stata effettivamente una grossa illusione. Affascinante. Sì, anche vabbè, nel confronto, vabbè, poi il paragone è sempre col classicismo, è il periodo subito prima, no, che poi insomma ovviamente ha dato così i Natali invece a tantissimi musicisti che però no, ovviamente il romanticismo che viene dopo giudica sempre il classicismo come schematico, come meno. Certo. In realtà, appunto, come diceva anche un po' anche per la volontà di rompere con il passato che c'è sempre nei movimenti artistici così, che si susseguono nel tempo, però in realtà è una visione un po' miope, appunto, quella del romanticismo rispetto al classicismo, perché invece, no, se si pensa a autori come Mozart piuttosto che come. No, ma ancora in parte Beethoven, che ne è ancora un po' a cavallo, cioè tutto è tranne che insomma è fisso e che sì, cioè, Accademico. può sembrare, cioè, può esserlo più nella forma, no? Nella sensazione, però poi in realtà, appunto, se non ci fosse stato quella struttura, poi nemmeno ciò che veniva dopo poteva appoggiarvisi Ma sopra poi è illusorio il fatto che questa invece tu non libertà, stai creando una struttura quando invece la stai creando e come, perché poi abbiamo certo. visto come il romanticismo poi è diventato un cliché portato avanti per secoli, perché Che poi. poi era quello che diceva Wagner, appunto, no? Proprio perché da lungimirante, anche se dentro un periodo, già vedeva i limiti del periodo e cercava di. Infatti, se si sente insomma, l'opera di Wagner, nulla c'entra con. Zero c'entra con Debussy, Chopin, Liszt, cioè è tutta. Ora mi dirai, vabbè, ok, No, no, beh. è anche opera, è anche un'altra forma. Sì, però, È no, non a caso. questo senso del flusso continuo, questo senso del. È qualcosa che va molto oltre il romanticismo, insomma. Quindi ecco. Appunto, forse era un po' anche un'illusione, no? Ah, sì. Di chi vive il momento. Comunque, Tornando a Liszt, Wagner, comunque, scusa, volevo cogliere l'assist. E nel frattempo, Liszt, gli succede sta cosa che lui. Vabbè, la fama continua, tutto sì, bello, siamo eccetera. diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, per Sì. dare un lui, nel 1861 addirittura Liszt suona per Napoleone III a Parigi, conosce Vai vedere. Bizet e quindi insomma lo stesso anno però si deve così scontrare col fatto che non può sposare la sua compagna, appunto Sayn Wittgenstein, perché lei non riesce ad ottenere l'annullamento del precedente matrimonio E ed lui è. non la prende Non la bene. prende No, non la benissimo. prende bene anche perché, No. insomma, gli fanno mai sposare nessuno. No, sto lì, lui si voleva anche sposare, È però lui da gran d'altronde. rivoluzionario, però comunque ci teneva. Oh, ci E poi si teneva. metteva con quelle già sposate, effettivamente era un problema. Che devi fare? E quindi inizia a manifestare un forte impulso religioso. E qui si inizia. Sì. E quindi inizia a Butta sulla comporre fede. roba, sì, il Cantico del Sol di San Francesco d'Assisi, roba così. Nello stesso anno, nel 62, in cui compone il Cantico appunto di San Francesco d'Assisi, muore la primogenita, sua figlia Blandine, che appunto non aveva dimenticato sotto un tavolo No, probabilmente, cioè ma evidentemente se la ricordava. una almeno, insomma, muore. E lui, lì, preso dallo sconforto, entra nel monastero della Madonna di Rosario di Roma. Certo che solo la fede avrebbe potuto essergli di vero conforto. E però lì, bam, secondo smacco, la figlia, un'altra figlia, Cosima, inizia una relazione e poi si sposerà con Wagner. Da qui poi, insomma, queste relazioni nascono altri tre Tre figli di figli che Wagner. dicevamo hanno dei nomi, no? Vabbè. Isolde, Eva e Vabbè. Siegfried. Come li doveva chiamare No, Wagner? infatti, no, Cioè, vecchio. mica poteva chiamare Roberto, cioè. Scusa. È così. Però, ovviamente, Liszt, che come tantissimi, tantissimi personaggi, ma anche, insomma, persone meno famose, sappiamo, sono a parole molto rivoluzionari e molto Liberti. comprensivi e E libertari, poi. poi nella loro, quando tocca a loro, E infatti non gli tornò non gli tanto. tornò, perché lui poteva fare che gli pareva, relazioni con chiunque, eccetera. Però Ma la sua figlia, la figlia è sposa la Wagner. figlia è mia, E no, non mi torna e tanto. quindi i rapporti tra i due iniziano, no, Così, no. niente, si sfasciano Anche per. perché, appunto, sì, non, anche questo andare verso il misticismo, cosa che in Sì, realtà poi probabilmente anche quello. paradossalmente successe anche a Wagner, nel suo tardo, deve essere una roba, ora non Contagiosa. così estrema come Liszt, che prese proprio gli ordini, però anche Wagner, insomma, alla fine la buttò più sul mistico di quanto sì. invece in tutta la sua carriera aveva, no, aveva invece amato e esaltato le divinità panteistiche del nord. Tanti. Invece poi alla fine ritorno a Cristo. Infatti nel 65 riceve in Vaticano la tonsura, gli ordini minori e via così. E ciao. E quindi proprio è andato. Ordinato. Questo è quanto. Io appunto a questo punto farei una chiosa finale perché sì, poi abbiamo l'ultimo ascolto. Sì, interessante appunto l'istomania, il termine che abbiamo incontrato prima, da poi poi anche così nel nostro tempo, comunque insomma ormai sono passati 30 anni, però un noto film di Ken Russell, genio, fecondo, pazzo, della filmografia, insomma famosissime sue opere, tra cui Stati di allucinazione, famoso film. Nel 75 lui appunto realizza questo film sul compositore tratto dal libro Nelida di Marie Dagoult, che parla appunto del suo periodo e della sua relazione con Liszt. Peraltro, scusa, cioè per molto tempo si pensava che avesse scritto lui, perché chiaramente le cose belle devono sempre nascere. Infatti, invece no, era appunto stato scritto da lei, e così lava un po' i panni in pubblico di quella che era stato così la loro relazione e la figura di Liszt. Chiaramente che Russell ha una cifra stilistica molto precisa, molto delirante, esagerata, figlia un po' anche di quei tempi. Pensiamo che il film è del 75 ed è dello stesso anno di Tommy. Cito Tommy non a caso perché il protagonista di Listomania è proprio Roger Daltrey, il cantante degli Who e protagonista anche di Tommy, che esce nello stesso anno. Il film è una fantasia ovviamente esagerata, anacronistica e totalmente un carnevale totale di divertentissimo e veramente buffo, diretto appunto da quest'autore così particolare, così strampalato. E tra l'altro oltre a Daltrey c'è addirittura Ringo Starr che fa il batterista De Vito che fa la parte del Papa, e il musicista Rick Wackerman, che era componente degli Yes, la notissima band progressive degli Yes. Lui compose la soundtrack, quindi la colonna musica è composta da Wackerman, che interpreta anche un personaggio, il dio Thor, perché ovviamente che ci va ci vuole, ci hanno filato tutto. E Wackerman però fa un lavoro interessante compone dei pezzi originali e dei pezzi sono invece tratti da Wagner piuttosto che da Schumann, piuttosto che da tutti i musicisti del periodo di Liszt. Quindi fa questo lavoro molto buffo a cui Daltrey tra l'altro presta la voce, perché ovviamente c'hai Daltrey che fai, non lo fai cantare, e almeno cantare, e appunto crea questa colonna musica in parte originale, in parte non originale, perché viene appunto in cui lui lavora sui brani di notissimi musicisti dell'epoca di Liszt. Ora, ovviamente non vi sto a raccontare così la storia, perché è del tutto racconta appunto la celebrità di Liszt, non a caso ci mette da altri, che in quel momento era insomma un divo, era il cantante degli Who, quindi e anche tutta questa frenesia, proprio questo momento di estrema fama di Liszt lo rilegge in chiave pop, in chiave anni 70, e quindi è molto bello, è molto interessante, molto appunto delirante, e da vedere sicuramente per chi non l'avesse visto. Veramente la visione di Liszt come la prima pop star e interpretato da una rock star contemporanea come Daltrey, e quindi questo consigliatissimo appunto da scoprire per chi non l'avesse visto, da riscoprire, insomma un cast appunto molto molto buffo, molto composito di musicisti e di attori, e divertente, insomma, da tipicamente rasseliano. Come peraltro anche l'altro film dedicato a altri romantici come Mary Shelley, Percy Shelley, che è sempre di, sì, è sempre di Liz, lui è sempre di Russell, sì. Lui era flippato, gotica, sì. Gotica, no, non ecco. Sempre raggiungeva. Ecco come si chiamava. Gotica, sì, e gotica è proprio su sulla notte in cui nasce Frankenstein di Mary Shelley. Sì, la filmografia di Russell è veramente lui era veramente un inglese, ovviamente, quindi la musica era per lui, insomma, veramente adattava quasi sempre biografie, no? Però le adattava totalmente al suo, a modo suo, al sì. suo delirio, veramente. Vabbè, appunto, Tommy, da Tommy a veramente a gotica, insomma, davvero questo stile delirante che lui aveva, che usava per rileggere questi così, e aveva poi un po' questa è stato accusato molte volte perché i suoi film hanno poi una grossa componente sessuale di estremamente trasgressivi, quindi insomma non è mai stato ben visto, ovviamente. Però insomma, ecco, questo kitsch, questo realismo kitsch, spesso paragonato a Fellini, anche se ovviamente molto più estremo di Fellini. Eh sì. Però tipicamente così, e lui racconta appunto questo personaggio, così come ne aveva raccontati altri. Sì, e secondo me è una visione abbastanza appunto trasportata alla contemporaneità, però buffa, alzante, insomma. Bene. Listomania. Bene. Listomania. Allora, e siamo arrivati alla fine, vi lasciamo con l'ultimo brano, che è un brano un po' più lungo degli altri, dura 12 minuti, e qui siamo nel pieno proprio, è Mephisto Walzer numero 1, famosissimo, fa parte del primo di 4 valzer che traggono ispirazione da un episodio in particolare legato al personaggio di Faust, e vabbè, insomma, siamo proprio qui nel bel mezzo di tutto quello che vi abbiamo raccontato fino ad adesso. Direi che insomma è una degna conclusione, un po' la sintesi di tutto quanto. E lo sentirete da soli, cioè direi che è proprio inutile parlarne perché sì. Si racconta proprio da solo questo brano. E con questo vi direi che vi possiamo salutare, vi liberiamo e vi lasciamo alla nostra bobina, alle repliche. E vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 6, sempre su Radio Wombat. A presto. Ah no, dimenticavo, sì, che poi ve lo ridiremo nel corso della settimana nelle altre trasmissioni della Radio Wombat. Inizia prossima settimana in Chiostri Ribelli, non 2 giorni, sono di più, sono due fine settimana. Sì, di kermesse. Dedicata alle arti figurative, ai fumetti, ai tatuaggi, a tutto quanto. Benefit per inguaiati e inguaiate con la legge. E sarà in 4 spazi liberati fiorentini, il CSA Next Emerson, il K100 Cantiere Sociale Camillo Sanfuegos, la Polveriera Spazio Comune e l'Occupazione Corsica 81. Vi invito a guardare il sito inchiostriribelli.noblogs.org e anche a consultare lapunta.org per avere un po' più di informazioni, dettagli. Ci sono tantissime cose, proprio non ve le possiamo spiegare perché no. Sono troppe, insomma. Andatevela a vedere, presentazioni, concerti, live painting, workshop, tutto. Quindi andate, mi raccomando, a guardare il programma, ce n'è per tutti. A presto. Vi salutiamo. A domenica. Ciao.